Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona giornata a tutti gastronauti e radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di un argomento che negli ultimi tempi si è molto sviluppato perché c'è un grande ritorno a mangiare molto semplice, andare in osteria o andare in trattoria, ma la verità dobbiamo scoprirla, andare a capire se esistono ancora vere osterie o vere trattorie. E appunto, perché ci sono ormai le insegne di osteria e trattoria, si trovano un po' ovunque, ma quali sono le caratteristiche di un'osteria o di una trattoria rispetto a un ristorante? Cercheremo di vedere appunto questo. Io ricordo che chi volesse intervenire 800 24 00 24, 349 238 6666, per gli SMS. Ebbene, ho con me in studio un personaggio che rappresenta molto bene l'oste e le osterie. È il Maurizio Rossi dell'osteria della Villetta di Palazzolo sull'Oglio. Buongiorno, buongiorno Maurizio. Buongiorno, buongiorno Davide. Lei da quanti anni fa l'oste? Da sempre. Sono nato in questa osteria, nella camera d'albergo di questa osteria che i miei bisnonni hanno costruito nel Novecento, vicino alla stazione del treno dove passava la Milano-Venezia allora, fatta dalla metà Ottocento dagli austriaci. Già mio bisnonno aveva un'osteria nel quartiere, nel Novecento costruisce l'albergo della stazione, perché le osterie nascono attorno alle vie di comunicazione, poi vicino alle ferrovie, poi vicino alle fabbriche, perché devono andare a mangiare ai viaggiatori. Senta Maurizio, ma se la chiamano oste invece che ristoratore, lei si offende? Allora, mio bisnonno nel 1868 come professione c'è scritto su questo congedo militare oste. Ah, quindi? Mio padre oste, mio nonno oste, io sulla carta d'identità ho la denominazione di oste, infatti l'anagrafe, ma cos'è? Quindi c'è proprio scritto oste. Ma ora abbiamo con noi, vedremo di definire appunto la definizione, se esiste una definizione di osteria o di trattoria, Marco Bolasco, che saluto, buongiorno Marco. Buongiorno Davide, buongiorno. Curatore delle Osterie d'Italia, nonché anche direttore editoriale per la gastronomia di Giunti Editore. Marco, tu sei appunto il curatore. Allora mi chiedo, con quale criterio diciamo raccogliete appunto in questa guida che fate ormai da molti anni i locali? Come li distinguete? Perché è sempre più difficile, secondo me, distinguere l'osteria da un ristorante o chi si definisce osteria e non è osteria. Ma sì, diciamo che tre sono i criteri principali. Il primo, ovviamente, ed è quello che ci portiamo dietro da sempre e forse quello più riconosciuto anche dal pubblico, è che i locali che consideriamo osterie siano dei locali di cucina di tradizione, quindi che si rifacciano ai valori fondanti della tradizione della cucina regionale italiana. Il secondo è quello di un'attenzione al rapporto qualità-prezzo, e quindi stare entro una certa soglia. Oggi ci sono tanti locali molto chic che si definiscono vezzosamente osterie, ma non lo sono. E poi il terzo, che mi piace aggiungere all'altro concetto espresso da Maurizio, che saluto, cioè quello dell'utilità dell'osteria che sta lungo la strada, che è quello dell'osteria invece come luogo d'incontro, cioè l'aspetto della socialità. Ecco, questo direi che è un aspetto fondamentale, la qualità dell'accoglienza, il fatto che in un'osteria ci si ritrovi in un'atmosfera particolare è fondamentale per noi. Ma diciamo anche, tu hai definito vezzosamente, chi si definisce vezzosamente osteria, beh, io aggiungerei che ci sono molti che ci giocano su questo, mettendo osteria, pensando poi, in un certo senso vengono ingannati molti consumatori, molti clienti, perché pensano appunto al discorso di un rapporto qualità-prezzo che non include i lussi di un ristorante, e poi magari si trovano in realtà dei conti un po' fuori norma. Beh, assolutamente, assolutamente, però vorrei prenderne, come dire, il lato positivo e dire, se tanti grandi ristoranti, quelli che magari non lo fanno per ingannare ma lo fanno in maniera dichiarata, no? Si definiscono osteria, è perché dentro a questo concetto c'è un valore fondamentale della cucina italiana al quale si deve rifare anche il grande ristorante. Quindi, come dire, c'è l'aspetto che giustamente tu sottolinei di inganno che va ovviamente smascherato, ma c'è anche l'aspetto dell'avvicinamento di una cucina alta che oggi, certo, torna ai valori di base. Sentiamo Rida da Bergamo, una radioascoltatrice. Buongiorno Rida. Sì, buongiorno. Prego. Volevo intervenire appunto per la caratteristica, diciamo, la differenza tra l'osteria e il ristorante. Prego. Secondo me, cioè, con l'esperienza che, diciamo, che io faccio l'autista, ogni tanto mi capita anche da mangiare in osteria, diciamo, no? Che sono pochissimi, c'è la differenza. Secondo me è meglio l'osteria del ristorante. Ah, quindi lei è meglio l'osteria del ristorante? Beh, sicuramente per uno che viaggia, appunto, abbiamo detto che sulle grandi comunicazioni l'osteria un tempo era importante, ma un tempo erano importanti i camionisti, perché laddove si vedevano dei camion fermi, sicuramente si correva a mangiare, perché si sapeva che si spendeva il giusto e si mangiava bene. Non solo, vorrei ricordare che per tanti anni in Italia è stata pubblicata la guida dei ristoranti dei camionisti, quindi era la famosa guida dei camionisti, che, se ben ricordo, era la guida Pirelli. Bene, ma voglio tornare un secondo a Marco. Marco, tu pensi che possa avere un grande sviluppo la tipologia della osteria nel tempo? Ah, io guarda, Davide, penso semplicemente che o troviamo, diciamo, la via per proseguire nel concetto di osteria, e quindi anche una seconda generazione di osterie e trattorie di qualità, o la ristorazione italiana è spacciata. Cioè, questo è l'elemento su cui dobbiamo ragionare, questo è il futuro. È chiaro che non possiamo pensare a gestioni familiari di una volta, è chiaro che non possiamo pensare alle nonne in cucina, ma oggi ci sono tanti giovani che si avvicinano a questo mestiere e che interpretano magari in maniera un po' diversa. Sono questi, la nuova generazione delle osterie senza retorica, che devono affrontare la sfida. Ecco, che ci aspetta. Devo passare la linea alla regia, ma rimani con noi, perché vorrei proseguire su questo discorso è importante. Io voglio tornare da Marco Bolasco, col quale io sottoscrivo in pieno l'evoluzione che lui ha tracciato appunto sulla ristorazione italiana. Ma vorrei aggiungere questo, Marco: tu hai detto giustamente le giovani generazioni. Purtroppo si è instaurato un modello che io chiamo chef star system in questo paese, che tutti i giovani che si avvicinano alla ristorazione vogliono fare gli chef e non i cuochi, e quindi mirano ad altro. Purtroppo c'è questo, io vedo questa grande carenza, non so tu come la pensi. Sicuramente questo è un problema, però dobbiamo anche pensare che per un giovane era difficile, no, voler pensare il proprio futuro nell'ottica del ripetere ciò che facevano i nonni. Quindi è stato un processo naturale quello di vedere nel grande cuoco un po' più, come, di successo, un mito, un'ambizione. Il problema è che questo ha preso una deriva, quindi da una cosa che poteva essere positiva, il rilancio di un lavoro, oggi bisogna fermarsi e, come si dice spesso, con calma, slow per quanto mi riguarda, affrontare uno scenario completamente diverso, dentro il quale io credo un giovane, e qualcuno se ne vede, che capisce il valore dell'essere oste oggi, ho anche un grande futuro imprenditoriale. Bene, grazie a Marco Bolasco. Ricordo 800 24 00 24, 349 238 6666. Ma voleva intervenire, credo, Maurizio. Sì, volevo dire che contraddistingue l'osteria sono anche i piatti. Cioè, i piatti dell'osteria sono dei piatti fatti che, riscaldandoli, sono più buoni, quindi legati al territorio, ma di cui parlo delle trippe, degli stoccafissi, degli stracotti, che secondo me sanciscono la differenza fra un ristorante e un'osteria. I piatti di recupero, quindi le polpette, queste cose, insomma. Lì ci deve essere una base di piatti che rispecchino il territorio e rispecchino la tradizione delle osterie. L'osteria del tempo perso non c'è più, non c'è, ha cambiato nome e adesso posto più non c'è, e gli amici intorno che non fan più blend blend. L'osteria del tempo perso non c'è più, non c'è. Dice... E invece c'è ancora l'osteria del tempo perso. Mi piace smentire questa canzone. Buongiorno a Marco Iacobelli dell'osteria del tempo perso di Casalvieri in provincia di Frosinone. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e grazie per la musica che mi avete fatto ascoltare. Senta Marco, lei si definisce osteria con le caratteristiche appunto che abbiamo cercato di definire fino ad ora? Cerchiamo, e mi sembra brutto dire le parole che sto per dire, ringrazio la crisi che stiamo vivendo, perché ha ridato luce a cose che forse qualche anno fa erano bistrattate: l'atmosfera, la sostanza del piatto, l'amore del nostro lavoro, perché fare gli host in provincia non è semplice, e non è stato semplice, oggi invece ha un valore diverso perché siamo ritornati un po' alla ribalta. Come sappiamo fare noi nel nostro paese, sappiamo abbandonare cose che forse danno più sostanza per poi arrivare a quelle che negli anni rivedere le cose e oggi dare più importanza alle cose che contano. Il rapporto con il cliente è più diretto, pochi fronzoli in mezzo al piatto, il servizio è molto più semplice e poi l'osteria si vive, si parla, ci si conosce. Questa è la cosa che... Tra l'altro lei ha un'osteria in un paese di soli 3.000 abitanti, quindi diciamo... Assolutamente sì, assolutamente sì. E parlare di biodinamicità di un vino naturale, oppure parlare di un brasato fatto con carne al chilometro zero, parlare di un vino che non ha solfiti, cioè è difficile, però cominciarlo in un'età molto giovane ci ha portato oggi a vedere risultati molto belli, che poi il risultato più importante è quello del cliente, il cliente che ci vuole bene. Beh, rimanga con noi Marco, perché, okay, perché ora voglio leggere un altro SMS. Un radioascoltatore scrive un esempio: Genova, antica osteria del Bai, viene portato al tavolo e accolto come uno desidera una coppa di champagne. Guai se entri fidandoti del nome, inutile dire che i prezzi sono veramente impegnativi. Gianni da Udine. Beh, è evidente il momento che anche Marco ha sottolineato, un momento difficile in cui c'è un ritorno come in tutti i momenti di grave crisi. Ma io voglio andare ora a Milano. A Milano perché da anni c'è un'osteria che un tempo era addirittura un dopolavoro ferroviere, l'osteria del tempo, in cui Angelo Bissolotti, che è il patron, da sempre ha fatto una ricerca, ma in tempi non sospetti, di prodotti. Questo posso garantirlo perché in tanto tempo fa, diciamo che ero spesso da Bissolotti e vedevo le scoperte che lui faceva di settimana in settimana. Buongiorno Angelo. Buongiorno Davide. Sei stato un antesignano, ma oggi come ti senti? Senti che ci sono tanti che hanno seguito questa strada oppure pochi? Ma io mi sento da questo punto di vista contento, perché tanti hanno seguito questa strada, perché quando parlo d'osteria a me viene sempre in mente l'anagramma di osteria, che è un anagramma meraviglioso e che fa sintesi. L'anagramma di osteria è storia ed è un anagramma stupendo. Complimenti, complimenti per averlo identificato, bravo. È un anagramma stupendo e credo che in questi anni l'osteria si è trasformata. Si è trasformata e si è adattata ai tempi. Sono nati nuove generazioni di osti, appassionati, competenti, stanno dando importanza al vino, alle materie prime, alla biodiversità, all'esperienza dei presidi, per esempio, che accompagnano spesso molte osterie, è un'esperienza straordinaria. I mercati della terra, l'attenzione ai prodotti del territorio, dell'agricoltura di prossimità. Insomma, mi pare che ci sia in tutto ciò una buona evoluzione. Uno pensare a Milano un'osteria probabilmente ci pensa difficilmente, eppure da quando esiste l'osteria del treno? Da 25 anni esiste l'osteria del treno, così come la guida Slow Food esiste da 25 anni, per cui quest'anno è il 25esimo e festeggeremo con una grande festa. Bene, rimani con noi, sentiamo Guido da Brescia, un radioascoltatore. Buongiorno Guido. Sì, buongiorno, salve. Ma la mia esperienza di ristorazione è in Italia, comunque dal punto di vista della qualità del cibo, è normalmente buona. Quello che secondo me, a me non piace tanto dire differenza tra osteria e ristorante, secondo me la qualità di un posto dove si mangia passa anche tra la distanza tra un tavolo e l'altro e l'insonorizzazione del locale. Ci sono locali in cui non si riesce a parlare con la persona con cui sei al tavolo, dal rumore che c'è, dal rimbombo, eccetera, per sedersi al proprio posto o per passare i camerieri bisogna fare delle acrobazie. Beh, intervenite cari radioascoltatori, perché prenderanno appunti i nostri osti presenti. Ricordo 800 24 00 24. Ma voglio tornare un secondo a Maurizio Rossi. Bene, abbiamo sentito alcune annotazioni di questo signore, secondo me non male, quello del se vuoi rispondere. Allora, noi abbiamo uno spazio, ad esempio l'osteria, che è quello davanti all'osteria, dove si siedono persone che non si sono mai conosciute, ad esempio, e è un modo di vivere socialmente l'osteria. e nascono anche delle bellissime amicizie. Sicuramente se uno ha l'esigenza di stare in una situazione più tranquilla la può trovare, ma io credo che una delle caratteristiche dell'osteria è anche di questa socialità, come diceva Bolasco, che deve rimanere, che serve poi in questi momenti in cui di sbandamento, di molta difficoltà delle persone. Le persone hanno bisogno di essere coccolate, anche di stare assieme, insomma. Ecco, forse questo manca nel grande ristorante, perché lo chef sicuramente ora hanno cominciato a uscire in sala, ma prima non c'era questo contatto. Poi ora c'è questo, diciamo, questa accusa di molti che lo chef non è mai in cucina perché è in giro a fare altre cose. Certo, i conti purtroppo non tornano e bisogna arrangiarsi. Ma io voglio tornare a Marco Iacobelli, perché abbiamo detto un paese di 3.000 abitanti. Iacobelli, chi è il suo cliente? Non c'è una descrizione del mio cliente, perché proprio questo è il rapporto che si crea, come dicevate all'inizio, su un'osteria che sta in un paesino di 3.000 persone, ma è sempre un paesino in cui possono passare qualsiasi situazione, in qualsiasi serata, in qualsiasi momento. Quindi il cliente può essere dal professionista al semplice operaio, a chi ha voglia di un semplice calice di vino, a chi ha voglia di assaggiare un piatto diverso, ma un cliente definito non ce n'è. Questa è la cosa bella, che è un taglio, uno spaccato della nostra società, è uno spaccato incredibile che vede vicino dal nostro sindaco, la nostra persona più umile, alla persona più importante, uno spaccato di società l'osteria. Forse questo non era stato capito, sì, questo molto, è vero. Per molti anni. Questo è vero, è verissimo. Ma vedo un SMS di una radioascoltatrice che scrive: la latteria di a Milano dell'Arturo e Maria numeri uno. Bene, io non ho chiamato la latteria perché la ritengo un qualcosa di completamente diverso. Non è un'osteria, non è un ristorante, non è una trattoria, è un qualcosa di unico in Italia, e devo dire che è un posto a cui sono molto molto affezionato e credo che abbia molte delle caratteristiche dell'osteria, ma anche molto dalla grande ristorazione, e l'uno e l'altro. Ma sentiamo Gianfranco dalla provincia di Cremona. Buongiorno Gianfranco. Sì, salve, intanto grazie, complimenti per la trasmissione. Io mi sono collegato adesso alla radio, vi ho sentito, ho chiamato subito. Niente, vi do il mio punto di vista semplicissimo. Io sono un agricoltore, abbiamo dei prodotti nostri che commercializziamo a piccoli livelli con un punto vendita, e questo è il punto che volevo segnalare io, che di osterie già si fa un po' fatica a trovarne, e comunque che secondo me reperire prodotti da inserire nella somministrazione per i ristoratori, non so, è un mio punto di vista, viene un po' difficile trovare le osterie di una volta, se si possono chiamare così, perché già nella filiera della produzione si è un po' vincolati a certe regole, che i prodotti una volta è un po' difficile Gianfranco, produrli. Sì, Gianfranco, il tempo corre, nel senso, prego, che ci sono dei cambiamenti, è impossibile andare a ricercare ciò che era di una volta, i sapori di una volta, i profumi di una volta. Bisogna cercare l'osteria contemporanea, quella che è adeguato alla realtà di oggi dei concetti che erano dell'osteria di un tempo. Ecco, questa è la sintesi. È impossibile andare a ricercare una chimera o altro, secondo me, non si troverà mai. Quindi è giusto che oggi ci sia uno sviluppo dell'osteria, e sia stato uno sviluppo diciamo adeguato alla contemporaneità dei prodotti, della situazione economica e di altro. Ma voglio sentire su questo Angelo Bissolotti. Pronto Angelo? Sì, sono qua. Sì, cosa ne pensi tu? È impossibile trovare quello di una volta? È impossibile trovare quello di una volta, però ci sono delle esperienze oggi che sono estremamente particolari. Tu sei di Milano, sai che a Milano esisteva un salume che è la Filzetta. Questo salume è completamente scomparso. Bene, Gilardi, un giovane che ha 25 anni, che ha un'azienda agricola, ha imparato da dei vecchi norcini a rifare questo salame di cascina e lo riproduce in maniera artigianale, in modo straordinario. E questo è presente, per esempio, in un mercato della terra. Cioè, voglio dire, è vero quello che tu dici, ma è vero che c'è una grande attenzione a riproporre alcuni sapori, alcuni prodotti da parte di giovani, certo, che sono facili anche da cercare e anche da riproporre. Ma Angelo, hai detto riproporre, quindi questo ti dimostra che c'è un qualcosa di vecchio che viene proposto, non sarà, certo, mai, non sarà mai quello. E, ma devo dire che voglio chiedere a Maurizio, Maurizio, si trovano ancora tutti i prodotti di una volta? Diciamo, noi ad esempio quest'anno, lo scorso anno abbiamo fatto un orto in Franciacorta per proprio reperire le verdure direttamente per le nostre esigenze. Poi ci appoggiamo anche noi a dei produttori di grana padano che stagionano anche fino a 30 mesi, che si trovano nel circondario dei 10 chilometri. Noi abbiamo il mercato importante di Rovato, che è un mercato centenario della carne, e lì prendiamo le nostre carni. Aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché è già dottore, e in sede una maturità, si è sposato, fa carriera ed è una morte un po' peggiore. Beh, devo dire che c'è un bombardamento di telefonate e di SMS. Sono contento perché era giusto che ci fosse questo interesse. Sentiamo Alberto D'Alecco, un radioascoltatore. Buongiorno Alberto. Sì, buongiorno. Secondo il mio avviso, per dare un significato di osteria, bisognerebbe risalire 50-60 anni fa, quando nei paesi lombardi, anche nelle città, c'erano diverse osterie dove le persone andavano per bere il calice di vino. Quindi un'osteria dove trovavi sempre il vino. Poi se ti fermavi a mangiare, dovevi mangiare quello che l'oste preparava. Se alla sera faceva il minestrone, mangiavi il minestrone come primo, non avevi altre scelte. Questa era la vera osteria. Ma sa, ora è molto difficile perché con questa, anche questo provvedimento sugli allergeni, è un po' dura mangiare tutto quello che resta o quello che è pronto. Insomma, ci sono difficoltà non indifferenti anche per le osterie di questo tipo, e ci sarebbero state 50-60 anni fa se ci fosse stato questo provvedimento. Ma questa è una chiosa che faccio così, perché devo dire, ho fatto una trasmissione su questo argomento un paio di settimane fa, ho girato moltissimi ristoranti e non ho trovato un ristorante che abbia ancora, diciamo, abbia provveduto a essere in regola con questo provvedimento. Comunque, chiusa la parentesi, voglio andare da un amico che da anni fa una guida, il Mangiarozzo, che è particolarmente attento a osterie e trattorie. Buongiorno a Carlo Cambi. Ciao Davide, buon anno a chi ci ascolta e ovviamente a te. Senti Carlo, ma tu pensi, abbiamo così, con Bolasco abbiamo disegnato un futuro in cui sicuramente ci sarà un grande ritorno a non l'osteria di 50-60 anni fa, ma un'osteria contemporanea che rispecchi quei valori ma con, diciamo, le esigenze attuali. Tu cosa ne pensi? Ma io penso di sì, anche perché sai, se la socializzazione ormai è affidata ai social network, c'è bisogno poi di luoghi di aggregazione. Certo, il problema qual è? È che in Italia noi siamo bravissimi a complicare le cose. Tu parlavi degli allergeni, mi chiedo per esempio che senso abbia autorizzare a chiamarsi osterie luoghi dove non si beve vino ma si dà soltanto la birra perché ora è di moda. Credo che bisognerebbe arrivare a una specie di protocollo di definizione dell'osteria e consentire a chi fa osteria di derogare da alcuni di questi lacci burocratici spaventosi che francamente secondo me hanno pochissimo senso. Insomma, vedo che continuano a premiare gente come Re Zeppi o come Blumenthal, che manda la gente all'ospedale, e poi i nostri osti devono dichiarare se la gallina che hanno preso è stata seguita o no dai servizi veterinari. Mi pare una follia, insomma. Sì, siamo veramente a un'era di ossessione, è stata definita ossessione dei burocrati di Bruxelles. Ma sì, sentiamo Giovanna dalla provincia di Firenze, rimane con noi Carlo. Giovanna. Pronto, buongiorno. Prego. Io volevo parlarvi della Casciosteria, che è un'osteria a Pavana, dove vive Francesco Guccini. Lui praticamente si può dire che quotidianamente è lì, visto l'ambiente familiare e la buona cucina, e lì sono presenti appunto marito e moglie, lei in cucina e Mimmo in sala, e loro sono nati come affinatori di formaggio e poi hanno naturalmente questa passione rimasta, per cui si trovano i migliori formaggi non solo d'Italia ma direi d'Europa, e hanno questa cucina naturalmente familiare, stanno dietro anche agli ospiti, alle richieste degli ospiti, e la verdura è a chilometri zero, gli allevamenti che gli danno la carne sono lì della zona, allevamenti di carne, allevamenti biologici, naturali, e quindi mi sembra che rispecchino tutte le caratteristiche. Bene, sì, sì, sicuramente la canzone poi di Guccini è molto così, è molto, come posso dire, negativa sul discorso delle osterie, parla, ha ragione, perché a Bologna le famose osterie sono sparite quasi tutte. Io sul discorso chilometro zero ho qualche mio dubbio, perché sì, si possono utilizzare dei prodotti a chilometro zero, ma non mi si venga a raccontare che si fa una cucina a chilometro zero, perché è impossibile fare un'ottima cucina a ottimo zero. Si possono fare qualche piatto, sono d'accordo, ma laddove non ci sono olivi, laddove non c'è olio, io mi chiedo come si possa fare una cucina a chilometro zero. Chiusa questa parentesi, ma ora voglio andare al sud, voglio tornare al sud e voglio andare a Vico Equense, che è un luogo ormai deputato di grandissimi cuochi, ormai ce ne sono tanti di chef in giro per l'Italia, molto bravi, che sono nati a Vico Equense, però c'è anche un'antica osteria di Nonna Rosa. Buongiorno Beppe Guida. Buongiorno a tutti, buongiorno Davide, grazie. Beppe, e allora tu ti consideri osteria? Guarda, io mi considero, come dicevi tu, un'osteria contemporanea, perché quando è nata la mia osteria circa 20 anni fa, era un'osteria che io proponevo carne allo spiedo, pollo allo spiedo, il ragù, le polpette, che poi man mano si è evoluta. Però nel corso degli anni si è evoluta, però è comunque rimasta fedele alla tradizione, e difatti dopo 20 anni tengo ancora un menù che costa 40 euro che propongo i vecchi piatti storici dell'osteria di Covernata. Senti Carlo Cambi, ma non credi che anche ci siano molti che mettono questa denominazione osteria come specchietto per le allodole? Assolutamente sì, io per esempio diffido da tutti quelli che scrivono osteria con l'H davanti, è una cagata di proporzioni bibliche. Dice. Allora, le caratteristiche vere dell'osteria quali sono? Un'ampia scelta di vino, che il servizio sia assolutamente familiare, che quello che si mangia sia riconoscibile e soprattutto che ci sia spazio per chiacchierare, perché il connotato vero dell'osteria è che è il luogo dove il vino lubrifica i rapporti. Allora, se le osterie sono intecchierite, devi stare con lo smoking, oppure c'è il cameriere che ti racconta un menù iperbolico, quella può essere anche un luogo raffinatissimo, meraviglioso dal punto di vista gastronomico, ma non è un'osteria. L'osteria è il luogo dove tu vai a riconoscere te stesso nella chiacchiera con gli altri attraverso il vino e ti soddisfi col mangiare. Sul chilometro zero sono perfettamente d'accordo con te, mi pare una stupidaggine, io preferirei una cucina a luogo comune zero, questo mi piacerebbe, cioè non posso andare a Vico Equense e mangiarmi il rifreddo di tacchino, io a Vico Equense pretendo di mangiare della provatura, delle alici, della roba che mi racconta l'identità di quel posto, questa è la vera anima della nuova osteria. Fammi dire che le osterie contemporanee devono somigliare più ai bar à vin francesi che non all'idea che avevamo noi antica dell'osteria delle dame di Guccini con padre Casali, dove si andava a stornellare a far politica. Ma nello spirito del bar à vin bisogna che la scelta del vino sia una scelta meditata e consapevole, che il prezzo sia contenuto e che la proposta di cucina, pur enormemente soddisfacente dal gusto, non sia sterminata, perché se andiamo all'osteria con i cibi precotti, con le basi che ti offrono i grossisti, non faccio i nomi ma mi capite che cosa intendo dire, allora sì, lì perdo il valore dell'osteria. L'osteria è manualità, è conversazione, è convivialità, è identità del vino, questo è il punto centrale. Grazie Carlo per la tua chiarezza. Sentiamo Michele da Siena, un radioascoltatore. Buongiorno Michele. Salve a tutti, buongiorno. Io ci voglio parlare anch'io dell'esperienza nostra. Qua a Siena è una città che diciamo è fatta per le osterie, c'è una simbiosi storica con le osterie, e come dicevate voi, insomma, oramai è forse un po' difficile trovare l'osteria vera, perché io lavoro con i turisti, con gli americani, li porto in giro e loro rimangono sempre un po' spiazzati da questa cosa, non sanno capire, mi chiedono sempre la differenza tra il ristorante, l'osteria, la trattoria e così. È effettivamente un po' difficile spiegarglielo, perché questa distinzione, appunto, che diceva anche l'ascoltatore ora, dell'osteria semplice con la tovaglietta di carta piuttosto che a quadri bianchi e rossi, cioè non è che non ci sia, però ecco, è stata un po'... È uno stereotipo. È lo stereotipo. Sì, è stata sì. Anche un po' cancellata da questo, certo. Dal ristorante, insomma, che ha preso il nome di osteria, forse. No, le dirò di... era un po' in caduta come le dirò di più, qua. Le dirò di più, diffidare dei delle osterie o delle trattorie con la tovaglietta bianca e rossa, perché lo mettono pensando allo stereotipo del passato e in un certo senso di ingannare il consumatore. Grazie a Michele. Ora andiamo a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, andiamo da Pamela Veronese, che è titolare dell'Arcadia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Pamela, cosa c'ha in menù oggi? Beh, oggi piatti invernali della tradizione assolutamente, quindi il brodetto, queste anguille piccole pescate nell'interno della nostra laguna, fatte in umido col profumo di alloro, i bigoli in salsa, bigoli fatti in casa con la farina integrale proprio della zona, in salsa cosa vuol dire? Fatte con le sarde sotto sale, direttamente dal porto di Pila, uno dei porti più importanti qua della nostra zona, quindi tipicità assoluta, tradizione assoluta, convivialità, nel senso che l'osteria deve essere un posto dove uno mangia bene, conosce il territorio, quindi mangia il territorio, assaggia il territorio tramite questo ambiente semplice, inserito bene nel territorio, scambia due parole con l'oste o con me o con mia mamma che magari esce dalla cucina per sentire se va tutto bene, si beve il gotto de vin, cioè l'ombra, un bicchiere de vin semplicemente, non si pretende niente dal cliente e si cerca solamente quello scambio di parole, di interesse che una persona che arriva qua cerca nella nostra terra, e noi cerchiamo appunto di trasmetterla tramite i nostri piatti, tramite la nostra tradizione. Bene, a Pamela e a Beppe Guida auguro buon pranzo oggi e buon pranzo anche a tutti i nostri radioascoltatori, ma continuiamo in questo viaggio. Sentiamo Donatella da Genova. Buongiorno Donatella. Buongiorno. Io volevo segnalarvi una vera osteria, veramente che così comprende tutte le caratteristiche che sono state, diciamo così, espresse in qualche nella precedente telefonata. Ed è una osteria dove, tra l'altro, proprio ieri sera ho mangiato le lattughe ripiene in brodo, che è un piatto veramente fantastico genovese, che erano anni che non mangiavo perché non si trova facilmente e come si chiama questa osteria? Si chiama il Mangia Buono e si trova nella zona, diciamo, di Genova più antica, che è vicino alla cattedrale di San Lorenzo in Vico Vegetti, ed è appunto un bene, grazie, tante di osterie in quella zona, e questa però la volevo segnalare perché è veramente una osteria con un buon rapporto qualità. Grazie. Buona ragazzi, ciao, chi è che dice che il vino fa male? Ecco, abbiamo sentito, troppo divertente questa canzone. Sentiamo Alberto da Modena, un radioascoltatore. Buongiorno Alberto. Pronto, buongiorno Davide. Prego. Il tema che mi interessa è molto attuale e utile. Sono vicino a quello di Porto Tolle. Nelle cose, signora, donna, nelle cose io do un consiglio, la mia idea, e non sono uno che ha un ristorante della trattoria, però ci tengo molto a questo loro qui. La trattoria funziona, mi scusi se parlo sempre io all'inizio, potrebbe funzionare e funzionerà solo quando non hanno le spese dirette di pagare degli affitti o comunque che abitano lì, comunque. Perché la trattoria è un lavoro come un altro ed è un mestiere, e in economia servono delle cose corte o ridotte. Insomma, lei pone il problema della locazione, del costo della locazione. Con i tempi che corrono incide molto. Lei ha perfettamente ragione. Chi è che intraprende una cosa del genere? Io la vorrei mettere su, francamente sì, anzi, ne parlo anche adesso. Vabbè, facciamo, dove abita lei? In provincia di Modena. Allora, lanciamo un appello, ma dove, quale paese, dove la vuole aprire? San Prospero di Modena. Allora, San Prospero di Modena, se c'è qualcuno che ha uno spazio per un'osteria, chiamateci, vi mettiamo in contatto con Alberto da Modena. Grazie Alberto, grazie. Ora andiamo vicino, andiamo a Fornovo di Taro, anzi a Viazzano, andiamo all'Osteria delle Vigne. Buongiorno a Cristina Rotelli, buongiorno Cristina. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie. Senta Cristina, ma sta tirando la sfoglia in questo momento sì, lei? Sì, infatti. Immaginavo. Sì. Senta, ma quante sfoglie tira al giorno? Non so, ormai non riesco più a contarle, anche perché sì, abbiamo la nostra tipicità, appunto, sono questi tortelli che vengono fatti al momento, quindi si tira la sfoglia, si farciscono e si cuociono, quindi nei piatti si trova proprio il prodotto fresco appena fatto. Ma voi fate tutto al momento? Sì, la nostra cucina dove ci siamo, la nostra osteria appunto è gestita proprio a livello familiare, ci siamo io, mio marito e i miei figli, e viene fatto tutto proprio al momento, sia la preparazione che la cottura. Senta, ma il Pietro, che è il suo marito, il patrone, è lui che si occupa dei vini, quindi? Sì. Ha un po' la fissazione dei vini naturali. Sì, abbiamo questa attenzione per i vini naturali, che è proprio nata per una passione nostra, e poi l'abbiamo rivolta anche al cliente, perché comunque penso sia giusto che quello che vediamo giusto per noi offrirlo anche alle persone che vengono qui, ecco. Senta, ma i clienti vogliono imparare, appunto, a capire ad esempio cos'è un vino naturale, queste cose, oppure no, assolutamente no? Sì, diciamo che prima erano un po' più scettici, non c'è ancora questa confidenza con i vini naturali, ma comunque vediamo che quando Pietro, mio figlio, propongono questi vini, subito sono un po' titubanti, poi comunque apprezzano. Bene, apprezzano. Bene, rimanga con noi, andiamo ora da un'altra osteria, si chiama Locanda, ma diciamo che ha le caratteristiche dell'osteria. Andiamo quasi al confine, andiamo in Friuli, dove si parla tanto di vino e dove Agustin Deveta, che è, diciamo, ha una cantina di superalcolici e di vini davvero straordinari. Buongiorno Agustin. Buongiorno Davide, a tutti gli ascoltatori e anche agli ostini. Ma da quante generazioni, Agustin? Noi siamo da 5 generazioni, questa è la quinta, adesso si prepara la sesta con 4 figlie in campo. Siamo qua dal 1870 che gestiamo questa osteria di 220 anime. Senta Agustin, ma ecco, voi siete di confine, quasi di confine, e voi fate una cucina molto di confine. Ma diciamo così che noi facciamo una cucina di territorio, però un po' come dire, con contaminazione dall'est e dal nord Europa. Infatti siamo a San Michele del Carso, che si chiama Vrfetra Michela in Slovenia, che è una terra di confine. Una volta era molto arida, ma adesso che ha vissuto anche la prima guerra mondiale, però adesso grazie purtroppo a questa prima guerra mondiale ci sono tanta gente che viene su di fatti a vedere queste caverne, queste trincee che hanno combattuto tra l'Austria e l'Italia. Ecco, io credo che appunto in Friuli, verso l'alto, ci siano tante osterie dove la convivialità è importante, sì. Un discorso anche, se vogliamo, come posso dire, che va oltre una cucina tradizionale, perché ci sono degli incroci con le altre cucine davvero molto interessanti, e deve che è uno di questi che presenta questi piatti. Voglio sentire Leonardo da Udine, un radioascoltatore, poi torniamo. Agustin, Leonardo, buongiorno. Leonardo, Leonardo, buongiorno. Sì, prego, chiaro e forte. Volevo semplicemente segnalare un'osteria a Trieste che si chiama Il Salvagente, e lo salva anche in tutti i sensi, nel senso anche economico. È un vecchio ambiente gestito da due signori, anche loro di una certa età, che fanno tutto l'anno quei quattro primi e quattro secondi, insomma fanno in genere piatti locali, tipo la iotta, che è di Trieste, un piatto tipicamente con le verde invernale, fanno i sardoni impanati e fritti, e quelle quattro verdure, sempre quelle. Soprattutto volevo segnalare una cosa, le fanno bene, però per me l'osteria non si può andare a spendere 40 euro in un'osteria. Quello è un prezzo da ristorante. Con 15-20 euro uno mangia un piatto più il vino più un contorno, se vuole anche un minimo di dolce. Sì, però lei, Leonardo, ha detto che fanno quattro piatti e quattro verdure, insomma, è molto facile con una ripetitività così, diciamo, contenere i prezzi. Ma voglio sentire Maurizio sui prezzi. La nostra osteria, i prezzi vanno dai 10 ai 13 euro per piatto, quindi sono prezzi, diciamo, compatibili con quello che noi serviamo. E sicuramente i piatti, l'osteria deve avere anche molta identità, come diceva questo signore adesso nell'ultima telefonata. Quindi non è che le osterie devono sempre cambiare i menu e così via. Secondo me deve avere una forte base di piatti del territorio riconoscibili, che la gente viene per questi. E non c'è altra storia, è sempre stata così comunque. Andiamo a Palermo, sentiamo anche Alberto Rizzo. Buongiorno Rizzo, Osteria dei Vespri di Palermo, buongiorno. Buongiorno. Lei si definisce osteria per il menù, per il locale, per cosa? Ma mi definirei osteria per l'intento di ripristinare il clima e lo spirito conviviale che è proprio delle osterie. Noi abbiamo un locale che è un po' particolare, nel senso che ha due identità differenti durante l'arco dell'anno, quindi facciamo l'inverno con un'impronta decisamente più rustica, più terragna, in cui tutto il locale ha i connotati dell'osteria classica, quindi nell'apparecchiatura, nel tipo di stoviglie, ovviamente nel tipo di cucina, che è una cucina molto, molto semplice e immediata. E poi abbiamo un'identità estiva in cui cambiamo il nostro tipo di offerte, siamo un ristorante un po' più classico con una cucina di pronta gourmet, tra virgolette, non è una bellissima parola gourmet, ma insomma, diciamo, per intenderci, questo è il tipo di cucina che facciamo in estate. Inverno però l'intento è proprio quello di ripristinare l'idea dell'osteria, cioè l'aspetto informale, l'occasione dello stare a tavola per chiacchierare senza troppe ingessature nel servizio. E neanche del servizio, il servizio è molto informale, vi piace mettere a tavola le zuppiere in maniera tale che i commensali si servano come se fossero a casa, certo. Quindi il fiasco di vino con un buon vino sfuso ma di qualità, insomma, ripristinare il clima dell'osteria che sta un pochino, diciamo, sparendo bene. La ringrazio, grazie, rimanga con noi. Sentiamo Vittorio dalla provincia di Latina, un radioascoltatore. Pronto Vittorio? Sì, prego. Sì, buongiorno, volevo sapere che differenza passa tra le tavole calde. Qui a Reggio Emilia ci sono troppo tavole calde con l'osteria. Guardi, ho visto Maurizio sbiancare. Ho visto Maurizio sbiancare e credo che tutti gli osti che sono in ascolto probabilmente saranno sbiancati. Maurizio, che differenza passa? Tavole calde, voglio dire, non hanno come si può dire una forte identità, come diceva prima, nel piatto, danno da mangiare, distribuiscono del cibo. L'osteria è un luogo di socialità, distribuiscono anche un po' di buon umore. Bene, sì, poi anche la carta dei vini cambia il menù, cambiano tante cose. Ma devo solo dire che mi spiace non rispondere. Io ho 50 sms che molti di questi segnalano delle trattorie. Purtroppo non ho il tempo per farlo. Ho il tempo per sentire Wanda da Udine, una radioascoltatrice. Buongiorno Wanda. Sì, prego. Buongiorno, grazie a voi, sono felice di poterlo dire, che a Udine, nel cuore di Udine, dove c'è il castello, la Banca d'Italia, l'università, tutte queste cose importantissime, c'è un'osteria che è l'osteria Ai Frati, vecchia come il cucco. Per entrare si scendono due gradini, i muri sono grossi mezzo metro, con i muri ancora ad arco, le tavole di stile vecchio, si mangia bene, si beve benissimo e soprattutto la proprietaria è di una classe, nella sua semplicità, di una classe unica. Io dico la verità, quando si va lì si trova tutta la Udine vecchia, diciamo. Tutti grazie Wanda della segnalazione. Devo dire che a proposito del radioascoltatore che ha chiamato, mi è arrivato un sms che dice: molte ottime osterie, ora si chiamano anche tavole calde per motivi fiscali, magari, ma con una cucina sopraffino, certo vanno conosciute, Giovanni, boh, molto dubbio. Io ringrazio Maurizio Rossi, però invito la regia a mandare tutti all'osteria perché è troppo divertente questa canzone e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buona ragazzi, buona. Ciao, ciao, andiamo qualche cosa, ci troviamo, no? Siamo qui all'osteria, no? All'osteria, ah, a bere all'osteria, si canta un'altra all'osteria sotto tranquilli, pronti, pace col mondo senza nessuno che ci rompe, dai, sì, avanti, dai, via, tre soldi. Poi chi è che dice che il vino fa male? Un momento, beh, era un barbone, aspetta, anche questa la so io, chi è che il vino fa